Tancredi, che Clorinda un uomo stima, volle l'armi provarla al paragone. Facirando colei l'alpestre cima, ver altra porta, ove d'entrar dispone. Segue e l'impetuoso, onde assai prima che giunga, sappiede che l'armi suone, che l'armi, che l'armi, che l'armi suone, ella si volge e grida. Tu che porti morendo, sì, rispose, e guerra e morte. Guerra e morte avrai, disse, io non rifiuto darla, disse, li cerchi e ferma te. E volta credi che vi abbia veduto il suo nemico usar cavallo e scende. Impugna l'un l'altro il ferro acuto e aguzza l'orgoglio e l'ira accende. E vansi incontro passi tardi e lenti, quai due tori gelosi di dir ardenti. Non parar, non puritrar, si voglio un costor, ne qui destrezza parte. Non, non, noi colpion, fintion, pienion, scarsi toglie l'ombra al furor, uso dell'arte. Odi le spade, odi, odi le spade, orribilmente urtarsi a mezzo al ferro, il dietro armano parte, sempre il defer. Sempre in volo, discende il taglio in gol, in punta voto. Onda irrita lo sdegno, la vendetta, e la vendetta poi la tarilova. Onde sempre per sempre per sempre la fretta, simulove s'aggiunge piaga nova. Corridori si mesci più ristretta, si fa la pugna e spada un arno giova. Danzi con pomi e feloniti e crudi, pozza cogliermi insieme con gli scudi. Tre volte il cavalier la tonda stringe. E altrettante poi, tacque nodi, tacque nodi, tenaci, ella si discinge, nodi, fierico, non amante. Tornano al ferro! Tornano al ferro, tornano al ferro, e l'altro intinge di volto sangue. Il suo corpo è sangue sul pomo della spada appoggia il peso. Già nell'ultima stella il raggio l'acque sul primo albor che in oriente acceso. Vede Tancredi in maggior copia il sangue del suo nemico, e se non tanto offeso ne gode e insuperbisce. Oh, nostra folle mente con gli aura di fortuna e scolle, misero di che godi. Quanto messi siano i trionfi, infelice il vanto, gli occhi tuoi pagherò, si vita resti, di quel sangue ogni stilla un po' ripianto. Così tace questi sanguinosi guerrier, cessaro alquanto. Ruppe il silenzio al fin Tancredi e disse, perché il suo nome l'un l'altro scoprisse. Nostra sventura è ben che qui si impiedi, dando valor dove si legge. sui capra, ma poi che sorte riavvien che ci neghi e lode e testimone dell'opera. Pregoti, se fra l'aria loco i prieghi, che il tuo nome e il tuo stato a me tu scopra, a ciò ch'io sappia ho vinto vincitore, rispose la feroce. Intorno tieni quel cumiroso di non far paesi, a chiunque io mi sia, tu innanzi vedi un di quei due che la gran torre accese. Parse disdegno quel parlar Tancredi. In mal fondo egli cesti, e il tuo dire al tal ciel di par maletta, barbaro scortese la vendetta. Ora gli dare i cori di trasporta, mentre devono in guerra fiera pugna. Bullarti in tanto c'è la forza e morta, come invece l'entrambi in furor pugna. Ode sanguine, spaziosa, parta per l'altra e fare ovunque giugna, nell'arme dei cari. E se la vita non esce, stendi tuenti al petto unico. Ma ecco mai l'ora fatale giunta, che il viver di Clorinda al suo finte. Spinge egli al ferro del bel sen di punta, che vi si immerge il sangue avido bene, e la veste che d'or vago trapunta le mammelle stringe a tenere lieve, l'empie d'un caldo fiume. Ella già sente morire. Vittoria, e la trafitta vergine minacciando in calza il breve. Ella mentre cadea la voce afflitta movendo, disse le parole strene. Parole, parole care nuovo spirito addita, spirito di fe, di carità, di speme, virtù che Dio l'infonde, e se Rubella in vita fu, la vol in morte al cielo. Thank you. so che di flebile soave, chi al cor li sceme ed ogni sdegno ammorza, e gli occhi a lagrimar l'invoglia e sforza. Poco quindi lontan nel sed un monte scaturia mormorando un picciol rio, e gli accorse l'elmo in piede al fonte, e torno mesto al grande ufficio e pio. Tremar sentì la man, mentre la fronte non conosciuta ancor sciolse, e scoprì la vide e la conobbe. Hai vista, hai conoscenza, non mori già, che sue virtute colse tutte in quel punto, in guarda il cor le mise, e premendo il suo affanno ad arsi volse, vita con l'acqua chi col ferro uccise. Gioia trasmutosi e rise, e in atto di morir lieta e vivace dir parea. Maestre volarmonia tempra l'arguto suo. Maestre volarmonia, maestre volarmonia tempra l'arguto suo. Yeah.

Vostri barbi Thank you. Thank you. Oh,